1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Ci siamo, cari ascoltatori, sono le 7:20 minuti, siamo qui, amici miei, sono ritornato dopo una giornata di, come dire, vabbè, voi eravate a fare il ponte, tanto che ve ne frega a voi, siamo qua, alle 7:20 minuti. Parleremo di banche, di salvataggi delle banche, un tema che è ben affrontato sui giornali, più avanti con Oscar Giannino, e avremo ospite il deputato del PD Francesco Boccia, ma avremo anche ospite uno dei portavoci del gruppo Facebook Vittime del Salvabanche. Insomma, avete sentito il ministro Padoan, aiuti umanitari in arrivo, aiuti umanitari. A me fa riderissimo questa cosa, molto ridere, aiuti umanitari, non rimborsi. Vabbè, cercheremo di capire di cosa si tratta, intanto andiamo a leggere i giornali, In questo mercoledì 9 dicembre la maggior parte delle aperture è dedicata al giubileo, ma c'è anche altro, come il Sole 24 Ore che apre sul petrolio che affossa i listini, Milano perde il 2,26%, questo è il titolo di prima pagina. E poi appunto il giubileo per il Corriere della Sera, Francesco chiama al coraggio, il Papa ovviamente è Francesco. La Stampa, il Papa, abbandonate la paura. Per il Messaggero, giubileo senza folla, il Papa, basta paura. L'Unità invece ha un titolo a tutta pagina di questo tenore, Dio benedica Francesco. Avvenire invece la porta verso il mondo e c'è la foto del Papa che apre la Porta Santa. Poi il giornale Repubblica aprono sulla notizia che anch'io leggerò in apertura, cioè Donald Trump, Trump come Le Pen, basta islamici negli Stati Uniti, Obama dice vergogna, questo è il titolo di Repubblica, mentre il giornale limitiamo internet, la proposta shock sempre di Trump. Per Libero, Bancomat e carte di credito, oggi si cambia, ecco come. Mentre il Fatto Quotidiano continua la seconda puntata delle intercettazioni che da ieri il Fatto Quotidiano pubblica, e cioè intercettazioni di un'inchiesta calabrese, e Berlusconi ricattò Salvini e Maroni, vi scateno contro i giornali, questo è il titolo di prima pagina. Però andiamo appunto negli Stati Uniti, dove Donald Trump ne ha combinato un'altra delle sue, non sono neanche più gaffe. Sono proprio strategie mediatiche, strategie di comunicazione, evidentemente per colui che vuole intercettare i voti dell'ultradestra. Che cosa ha detto il tycoon americano? Ha detto sui musulmani, non facciamoli più entrare negli Stati Uniti finché non capiamo what the hell is going on. Che cosa diavolo sta succedendo, questo testuale, finché non capiamo cosa diavolo sta succedendo con questa vicenda dell'ISIS. Bloccare gli ingressi di tutti i musulmani e in alcune parti del mondo bloccare internet, che è fonte di proselitismo. Trump e i musulmani, caso internazionale, questo è il titolo del Corriere della Sera, pagina 11, contro i jihadisti bloccare internet. Non solo porte sbarrate ai musulmani, racconta il Corriere, anche chiudere internet in alcune aree del mondo per impedire il proselitismo online dei terroristi. E ovviamente c'è una reazione da tutto il mondo contraria, anche degli altri candidati repubblicani alla nomination, da Jeb Bush a Ted Cruz a Paul Ryan, anche Dick Cheney, il super falco dell'amministrazione di George Bush, prende le distanze da Donald Trump. Dalla Casa Bianca dicono invece, beh, parole incommentabili, per fortuna uno così non farà mai il candidato repubblicano, non può essere candidato. Addirittura Jeff Bezos, che è il fondatore di Amazon, che in questi giorni ha lanciato il razzo sperimentale Blue Origin, ha avuto secondo me la reazione migliore. Tengo un posto sul razzo per Donald Trump, spediamolo nella stratosfera. Questa è la risposta di Bezos. E tra l'altro il Corriere della Sera mette a pagina 11 con Michele Farina tutte le Beh, gaffe, come definirle gaffe? Beh, alcune sono veramente da persona impresentabile. Alcune sono battute, tipo Donald Trump, ho avuto una vita dura, ho cominciato con un piccolo prestito di mio padre, $1 milione. Questa è una delle battute che ha fatto Donald Trump. Ma poi le battute sui disabili, sui neri, la pigrizia è una caratteristica dei neri. E poi sulle donne. Di Carly Fiorina ha detto: è una donna, non dovrei infierire, ma con quella faccia potrei mai essere il nostro prossimo presidente. Poi ha confuso le brigate Al-Quds con i curdi, ma in fondo sono tutti nomi arabi. Ha proposto il muro per i clandestini col Messico e lo facciamo pagare al Messico, ovviamente. E, i messicani che vengono qui portano droga, crimine, stupratori sono e via così. Donald Trump, signore e signori, l'ultima stop agli islamici e stop a internet. Va bene, veniamo in Italia. Ci sono due notizie che provengono dal mondo della scuola che vi vorrei leggere. La prima è su Repubblica, pagina 21. Succede al liceo Virgilio Meta come anni di occupazioni, liceo barricadero per fama, racconta Corrado Zunino. Stiamo parlando di Roma. Pagina 21, classico scientifico internazionale, il Virgilio in occupazione da 14 giorni. Titolo dell'articolo, i genitori sfidano i figli nel liceo storico di Roma, contro l'occupazione chiamiamo la polizia. È in atto, racconta Corrado Zunino, da 14 giorni l'occupazione del Virgilio, ovviamente contro la buona scuola, legge autoritaria e classista, contro la preside autoritaria. L'ultima barricata vede, tra l'altro, persone, figlie di persone celebri, l'erede del vicepresidente della Camera Roberto Giachetti. C'è anche Davide Bertinotti, nipote di Fausto, bocciato due volte, costretto a ritirarsi per i 7 in condotta. Leggo testuale al Virgilio, Davide Bertinotti. A questo giro sono rimasti attivi il figlio di Gennaro Migliore, candidato mancato del PD alla Regione Campania, il figlio del presidente della Camera del Lavoro, Roberto Giordano. Ecco, fama e quarti di nobiltà rivoluzionaria non possono essere annacquati da un anno santo e dai problemi di ordine pubblico che si porta dietro. La barricata resiste in pieno giubileo e ora però alcuni genitori dicono: vi mandiamo la polizia. Entro domani dovete sgombrare. Io però ho letto le rivendicazioni, sentite qua le rivendicazioni degli studenti, alcune delle rivendicazioni. Che il bar apra alle 7:40, anziché, io vi giuro, anziché alle 8:10 per evitare la calca durante la colazione, momento di primaria importanza. Che si possa entrare in classe anche dopo le 8:10, ma sì, alle 9:15, quando cazzo ci pare. E poi migliorare la scuola, e questo sì, l'architettura, questo è giusto, è una richiesta legittima. E, vabbè, pare che oggi può darsi arrivi il sottosegretario Faraone alla scuola, colui che ha detto in passato io di occupazioni ne ho fatte. Ma l'altra notizia al mondo della scuola mi interessa molto di più, la trovo molto più sensata. C'è una insegnante, e bisogna dare merito, Antonella De Gregorio lo fa sul Corriere della Sera, pagina 25, l'italiana al Nobel dei prof. C'è un premio, diciamo, l'equivalente del premio Nobel, è ideato dalla Varkey Foundation, è sostenuto dall'UNESCO, è il premio ai migliori insegnanti al mondo, E c'è un'italiana... Si chiama Barbara Riccardi, 49 anni, è tra 50 finalisti, l'unica italiana, del Global Teacher Prize. E attenzione, perché si vince $1 milione, cioè il primo premio consiste in $1 milione. E a parte l'incredulità di questa insegnante che dice: ma è vero, sono stata scelta. Sì, è stata scelta tra 8.000 colleghi. Insegna da 26 anni, ha 49 anni, grinta, competenza, tanto entusiasmo e potrebbe vincere comunque tra le 50 finaliste, selezionata tra 8.000 colleghi. questa insegnante di elementari a Roma, Barbara Riccardi. Beh, davvero, già il fatto di essere lì, complimenti, complimenti. Ma eccoci qui all'articolo che mi fa pensare della giornata. Il premio Mani sul volante di oggi va a questo articolo del giorno, ragazzi, anche qua siamo nel surreale. Stefano Cassinelli, pagina 23 del giorno. Ladro morì nel cassonetto e la famiglia chiede i danni. Succede questo: un ladro alcolico tenta, provincia di Lecco, tenta di rubare una piazzola ecologica comunale. No, non succede a Lecco, succede per la verità a San Donato Milanese. Alcolico risiede l'azienda che ha ricevuto la richiesta di risarcimento. Questo ladro tenta di rubare in una piazzola ecologica, ma il cassonetto, insieme ad altri ladri, il cassonetto si chiude, il coperchio del cassonetto si chiude violentemente e questo ladro, un cittadino rumeno, muore. Cosa succede dopo questo drammatico episodio del 2013? Succede che un anno dopo alla azienda produttrice di questi cassonetti arriva una richiesta di un avvocato, i familiari del ladro morto chiedono un risarcimento perché il ladro è morto per colpa, dicono, di questo cassonetto. E così l'imprenditore Roberto Ardenghi, che mostra la lettera dell'avvocato che chiede questo risarcimento, e lui è il produttore dei cassonetti, dice: cosa stiamo trasmettendo alle future generazioni? Perché alcuni devono lavorare una vita nel rispetto delle regole, non trovano sostegno nella società, e altri che rubano trovano appoggio nel nostro sistema giudiziario? Bella domanda. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Alessandro Milan, il pane Nutella dell'informazione. Zebon, zebon, zebon. Allora, alle 7:36 minuti, eccoci qui, cari ascoltatori. Ovviamente oggi troverete tantissime pagine dedicate all'apertura dell'anno santo, del giubileo. Non posso fare una sintesi, tra l'altro ci sono le cronache, i racconti dettagliati della giornata. Il Corriere della Sera dedica 10 pagine, per dire le prime 10 pagine all'apertura del giubileo. Sia sul fronte religioso, ovviamente, soprattutto, sia sul fronte della sicurezza. Tutti articoli che raccontano più o meno la stessa cosa, cioè il grande spiegamento di forze, di energie, la blindatura che c'è stata di Roma. E poi fortunatamente non è successo assolutamente nulla, ma ovviamente i timori c'erano. Vi segnalo tra i tanti articoli Luigi Accattoli sul Corriere della Sera, racconta pagina 9: fede, opere buone cancellano le colpe, il viaggio a Roma non è l'unica strada. Perché vi segnalo questo? Perché è l'aspetto religioso, cioè in fondo si parla dell'anno santo, del giubileo, sul perdono dei peccati. Allora Luigi Accattoli spiega tecnicamente come si ottiene il perdono dei peccati, se qualunque persona volesse seguire. Certo, c'è anche il solito urticante Iena sulla Stampa che prima ho ricordato. Giubileo durerà fino al 20 novembre l'anno prossimo, eppure bisestile, 348 giorni all'alba. Così Iena a pagina 3 della Stampa. Tutti raccontano anche poi i due papi, questa foto, come racconta Andrea Tornielli, per rimanere sulla Stampa, pagina 3, i due papi, Papa Francesco e Papa Ratzinger. Prima di aprire la Porta Santa, il Papa attuale è andato a abbracciare il suo predecessore, Benedetto XVI, che ha voluto partecipare alla cerimonia, anche se ovviamente con un passo molto incerto per via delle gambe dolenti. Va bene, comunque trovate molto sui giornali del giubileo. Noi invece parleremo più avanti dalle 8:15 di questo salvataggio, che non è tanto un salvataggio ma sono misure umanitarie, come le ha definite il ministro dell'economia Padoan. Di che cosa? Cioè delle quattro banche che rischiavano di fallire sono state salvate, cioè Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti. Cosa succede però? Che lo sapete, sono state azzerate molte obbligazioni, le obbligazioni subordinate di molti correntisti di queste quattro banche. E allora c'è un movimento di persone che lamentano di aver perso circa 350 milioni di euro. Ora, il ministro all'economia Padoan, come racconta Peda Romano a pagina 5 del Sole 24 Ore, nel tentativo di trovare una soluzione che non sia in contrasto con le regole europee, Padoan ha spiegato ieri che l'eventuale aiuto pubblico agli obbligazionisti delle quattro banche appena salvate dal fallimento deve essere considerato un aiuto umanitario, dunque distinto dal recente salvataggio. Bruxelles invece preferirebbe la strada giudiziale, al giudice il compito di decidere se raggiri eventuali nella vendita dei titoli impongano rimborsi da parte delle banche. Comunque il governo sta studiando, parole di Padoan, misure a sostegno delle fasce più deboli dei risparmiatori che hanno risentito di questa operazione di risoluzione dei quattro istituti di credito. Questa è l'oggetto della conferenza stampa a Bruxelles di Padoan e quindi si parla di misure umanitarie. Non è dunque un rimborso. Anche sul Corriere della Sera l'ipotesi di una restituzione del 30% sembra quella che rimane più in piedi. O una restituzione del 30% come o con un fondo di 100 milioni di euro partecipato dalle sole banche o anche allargata a una partecipazione pubblica oppure una somma simile permetterebbe di rimborsare il 30%. Resta in piedi anche l'ipotesi di concedere agli obbligazionisti che hanno perso il capitale una sorta di credito d'imposta da far valere in compensazione negli anni successivi. Insomma, la formula si sta studiando. Certo, Libero la mette così: l'Unione Europea no rimborsi agli sbancati e Padoan allora si inventa aiuti umanitari. Stiamo a vedere e staremo a vedere cosa succederà. Veniamo invece alla cronaca politica. La cronaca politica vede la settimana della Leopolda. La settimana della Leopolda cominciano alcuni articoli. I circoli in stile Leopolda, Renzi e il nuovo modello di PD, dove la tessera conta meno. Questo è il titolo di pagina 17 del Corriere della Sera. Racconta Maria Teresa Meli che Renzi vorrebbe dei circoli del PD stile Leopolda, la Leopolda che inizierà il prossimo weekend. Sarà una Leopolda dal titolo La terra degli uomini. Chi saranno i protagonisti? Tanti sportivi, Flavia Pennetta e Roberta Vinci, oppure anche Federica Pellegrini. Ma ci sarà anche Samantha Cristoforetti, l'astronauta, Fabiola Gianotti che guiderà il CERN di Ginevra a partire dal 2016, ci sarà anche Filippo Grandi, nominato da poco a capo dell'UNHCR, il commissariato per i rifugiati dell'ONU. Ma ci sarà, racconta il Corriere, in alcune anticipazioni, anche il precario assunto nella scuola, il diciottenne che spiegherà come utilizzerà i 500 euro della cultura, la giovane coppia che ha diritto al bonus bebè, la neo mamma che ha diritto alla maternità pagata. Insomma, un racconto, scrive anche Repubblica, pagina 17, dell'Italia che ce l'ha fatta, dell'Italia ottimista, dell'Italia che piace a Matteo Renzi. Eccoci qui allora, prima di continuare gli altri articoli di politica, no, tanto una notizia che il Corriere mette a pagina 16, fondamentale, con tanto di foto. Dudù e Dudina hanno avuto tre cuccioli. Dudì Dodò Dodà, non lo so, Didì Vavà Pelé, non lo so. Chiedo a Mauro Meazza che sa tutto di queste cose. Mauro, buongiorno. Buongiorno Alessandro, ti ringrazio di avermi informato, sì. Poteva essermi sfuggito questo aspetto della vita privata o pubblica, non so, di Dudù, che però non mi sembrava fosse alla Leopolda. Non è invitato, dai. No, certo. Senti, vorrei tornare a cose più serie, innanzitutto perché allora oggi con il Sole 24 Ore, come sai, essendo mercoledì, sì, c'è il vocabolario che si occupa appunto di termini europei, che, non so, ad esempio quantitative easing, un termine che è entrato nell'uso corrente, o QE, come tu ben sai. E allora oggi nel vocabolario, nel dizionario del Sole 24 Ore, anche questi termini di derivazione europea. Ma ci sono molte altre cose. Sentivo che ti appassionavi alla vicenda delle banche, degli aiuti umanitari con cui cerchiamo, per così dire, di dribblare il veto europeo agli aiuti di Stato. E allora ti segnalo anche che in questi giorni stiamo riportando nelle pagine di Finanza un po' le ricostruzioni delle vicende o delle ultime vicende di queste quattro banche. Oggi trovi appunto il caso di Banca Marche, ieri c'era un'altra segnalazione, ma non te l'ho potuta fare perché tu, da debosciato quale sei, ieri non ti sei presentato al lavoro. Ammetto. Che tu avessi dei buoni motivi. Oh, poi ti volevo dire, sempre nelle pagine di Finanza, peraltro, che ti consiglio come sempre caldamente di leggere, si parla di una nuova tassa, la Tobin Tax europea. Però stai tranquillo perché siamo ai principi, te ne riferisce Beda Romano, c'è una lunga consultazione, in realtà dura da anni, a livello europeo su questa tassa sulle transazioni finanziarie che dovrebbe andare a colpire. Si pensa che potrebbe esserci un'intesa complessiva europea nel 2016, forse nella seconda metà del 2016. Mm-hmm. Puoi dire poi a Giulia Crivelli, con cui ho parlato piacevolmente ieri, caro Alessandro, che vorresti parlarci anche piacevolmente domani. No. Sì, beh, quello naturalmente, ma anche perché forse lei non mi fa premettere da questioni, come dire, canine, proprio con tutto il rispetto. Ma allora, forse per continuità, non so, tra bestie, devo far valutare la questione tra il mio avvocato. Allora, mi chiedeva ieri del patent box, perché lei, essendo ragazza studiosa, non come te che sei debosciato, ecco, ti voglio dire che oggi sulle pagine di Argomento Tributi parliamo anche del patent box, ma parliamo anche, caro Alessandro, dell'intesa che c'è tra Unione Europea e San Marino per lo scambio automatico di dati. Quindi, se i tuoi due eurini nel giro del mondo che gli hai fatto fare sono finiti lì a San Marino, sappi che oramai siamo alla trasparenza, allo scambio automatico dei dati. Trovi tutto naturalmente su Norme e Tributi. Dove trovi anche una importante sentenza sul diritto all'oblio, che non riguarda le stupidate che ci diciamo tu e io la mattina, sulle quali è anche giusto che cada un certo oblio, ma invece il diritto alla cancellazione di notizie che riguardano una persona su internet. È una materia molto controversa, ti invito a leggere religiosamente, come sempre, le pagine di Norme e Tributi. Molto altro ti vorrei dire, ma mi limito a questo. Se vuoi due eurini comprare un immobile per affittarlo, un appartamento in uso per affittarlo, sappi che c'è il decreto che ti consentirà di avere una deduzione, uno sconto dal fisco dell'IRPEF. Sei contento di questo? Assolutamente sì. Lo apprenderai compiutamente dalla ricostruzione che ti presentiamo su Norme e Tributi. E a questo punto, con carissimi saluti e felicitazioni a Dudù, naturalmente. Ovviamente a Dudina anche. Anche a Dudina, certamente. Sì. Vabbè, dai, collegata. Tu vai avanti, fai finta di nulla. Vado avanti come se non fosse successo niente, esatto. Col mio abituale saluto. Traffico! Mauro Meazza e Alessandro Milan, il Don Camillo e il Peppone dell'informazione. Ora bisogna capire chi è Don Camillo e chi Peppone. Comunque, grazie caro ascoltatore, sono le 7:49 minuti, continuiamo a leggere i giornali. Dicevamo la politica, alcune notizie di politica, a parte la Leopolda, c'è subbuglio in Forza Italia, perché per la decisione di cooptare, di far entrare in Forza Italia Francantonio Genovese, che era un deputato molto forte siciliano del Partito Democratico, per il quale poi c'è stata una richiesta d'arresto, l'arresto, e il PD votò tra l'altro a favore anche dell'arresto quando era in Parlamento. E ora Francantonio Genovese, per opera del commissario di Forza Italia in Sicilia Micciche, passa in Forza Italia, dal PD in Forza Italia. Grandi polemiche anche all'interno del partito, molti in Forza Italia non sono d'accordo. Micciche fa un'intervista, intervistato dal Giornale, da Maria Teresa Conti, a pagina 6, dice: Genovese è stato arrestato dal PD, è logico il suo arrivo da noi. Il PD ha deciso di votare sì all'arresto di Genovese prima ancora che in Parlamento arrivassero le carte. Mancava una settimana alle europee, Renzi diede indicazioni per il sì senza nemmeno vedere gli atti. L'operazione per portare Genovese in Forza Italia è partita per caso. Parlavo con un deputato regionale del PD, Rinaldi, cognato di Genovese, con cui siamo amici, e così è nato l'incontro. E poi a un certo punto Micciché, altro che la politica, i valori della politica, risponde brutale a una domanda: senta, ma ha calcolato in termini di voti quanto vale l'operazione Genovese in Forza Italia? E sentite Micciché, è un'operazione dai 50.000 voti in su. Avevate dei dubbi ancora che la politica si misurasse in base ai valori, alle cose? È una operazione che vale 50.000 voti, risponde Micciché. E voilà, il bello della politica. Il Fatto Quotidiano invece da ieri ha iniziato, e c'entra con la politica, la pubblicazione di una serie di intercettazioni di un'inchiesta calabrese. Marco Lillo la chiama così: sono i segreti del potere. È un'inchiesta, l'inchiesta indagine breakfast della Procura di Reggio Calabria, che contiene intercettazioni ambientali condotte dal centro operativo della DIA di Reggio Calabria. La persona più intercettata al centro di queste intercettazioni è la portavoce del governatore Maroni, Isabella Votino, del governatore della Lombardia. E nella puntata di oggi ci sono le minacce di Berlusconi a Maroni, minacce politiche. I miei giornali vi massacreranno. Sono varie le telefonate tra Isabella Votino e Silvio Berlusconi. In una di queste telefonate, tra l'altro, Berlusconi dice anche: ma scusa, ma Salvini è proprio ubriaco con le dichiarazioni sgradevole, continuative. Anche questo Tosi, cioè il sindaco di Verona, non è che possiamo stare sempre lì a prenderle, eh? Tutta la sua città sa, e lascia in sospeso la frase, questa è una cosa che dirò un certo momento. Cioè Berlusconi con i puntini fa capire di sapere qualcosa di Tosi, evidentemente, in questa chiacchierata con Isabella Votino. Ma insomma, sono intercettazioni che fanno capire un po' il potere politico in Italia. E continua la pubblicazione, e Il Fatto dice: le pubblicheremo per i giorni anche successivi. Veniamo invece alla cronaca. Mi ha molto colpito questa notizia di cronaca che finisce su tutti i giornali, e cioè l'uccisione di una donna, purtroppo nei giorni scorsi a Parma. Si cerca una persona, è un tunisino, si chiama Mohamed Jella, era il suo convivente. Qual è la particolarità di questo? Ovviamente è il sospettato numero uno, per carità, di questo omicidio. Era stato espulso dall'Italia. E tutti i giornali giustamente fanno notare, eccolo qui Il Giornale: l'omicidio di Alessia in fuga, è un altro espulso impunito. Così Il Giorno: uccisa a Parma, caccia al compagno, espulso dall'Italia, ma era rimasto. Questo è un gran classico, le espulsioni, ed era rimasto in Italia. Anche Mario Giordano, in prima pagina del quotidiano Libero, si concentra proprio così: il tunisino che ha ucciso una 39enne a Parma, espulso. Il militante ISIS che a Bari reclutava terroristi per la Guerra Santa, espulso. Il ladro che a Vaprio d'Adda è entrato nella casa di Sicignano, espulso. Tutti espulsi i delinquenti d'Italia. E Libero lo mette, lo faccio vedere anche su Periscope, a pagina 2. Espulsi ma liberi di girare l'Italia, ben godi dei criminali. Va bene, ma siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. È questo, un'intera pagina, inizia in prima pagina, della nostra amica Selvaggia Lucarelli, che torna prepotentemente alla vittoria in prima pagina del Fatto Quotidiano. E poi, ripeto, un'intera pagina, che faccio vedere, pagina 19, una dichiarazione proprio d'amore appassionata per Ryan Gosling, l'attore che ha surclassato ormai George Clooney. Piacere, sono Ryan Gosling, il rottamatore di Hollywood, colui che è diventato l'attore più virale e più virile di Hollywood. Ma chi se ne frega!